Lulu cammina, corre perfino, ha più di 2 anni. Ma Miriam, certi giorni, continua a prendere la carrozzina. Nei vialetti delle Butte la spinge Lulu, la diverte e diverte i passanti. Oggi, arrivate davanti a una panchina, Miriam e Zazano tirato fuori dalla carrozzina il secchiello, la paletta, il rastrello e gli stampini, e Miriam ha trascinato Zazà verso il mucchio di sabbia, dove Lulu ha già raggiunto altri 2 bambini. Zazà ha voglia di sedersi sulla panchina accanto alla carrozzina, ma Miriam insiste. La carrozzina rimane sola e Miriam si mette a parlare da bebè. Zia Zazà, ora fa una bella formina. Poi tende il secchiello a Zazà. Questa è la guarda e nota che lei sbircia dalla parte della panchina alla quale si è avvicinato un passante. L'uomo si siede vicinissimo alla carrozzina e si tira fuori di tasca un giornale che spalanca. Ci prende la nostra panchina, esclama Zazà. Vado a vedere, dice Miriam. Afferra la carrozzina con gesto possessivo, la spinge dall'altra parte della panchina, risistema un po' il materassino e si siede a sua volta. L'uomo ripiega il giornale, si alza e se ne va. Zazà se ne torna alla panchina. La bocca di Miriam sorride, ma i suoi occhi sono attenti e la sua mano trema quando cerca di fermare quella di Zazà che solleva già l'angolo del materassino. Quanto basta per verificare che non ha sognato. Ha ben visto l'uomo toccare la carrozzina prima che Miriam la spostasse per metterla a destra della panchina. Non ha sognato. Sotto il materassino c'è qualcosa. È ammaccato, triangolare, impacchettato in uno straccio grigio. Sei pazza! Dice a Miriam lasciandosi cadere sulla panchina. Siete tutti dei pazzi! Dei pazzi! Ripete. Miriam fa un gesto con la testa, le spalle e le mani che vuol dire insieme sì, no, ma è così. Bisogna farlo e io lo faccio. A quel punto, 2 donne vengono a sedersi sulla panchina. Trovano Lulu molto carina con la sua tutina di lana rossa. Miriam ringrazia e chiede l'ora. Torniamo. Decide. Raccattano il secchiello, la paletta, gli stampini e il rastrello che ammucchiano nella carrozzina, tutti appiccicosi di sabbia. Lulu vuole spingere e le 2 donne dicono che la trovano davvero molto robusta e precoce per la sua età. Ridono, si salutano. Mentre si dirigono verso i cancelli, Miriam chiede a Zazà di non fare quella faccia. Non è niente, è solo un trasporto, è il terzo che fa. La pistola deve essere servita, ma lei non sa che cosa. Sono venuti a renderla e lei la riporta, nient'altro. Ma per portarla preferisce che Zazà non vada con lei. Si lasciano davanti al metrò. Prima di scendere gli scalini, Zazà si volta. Miriam ha sistemato Lulu nella carrozzina in mezzo ai giocattoli. Prende il braccino della figlia e le fa fare ciao ciao a zia Zazà. Zazà risponde. Miriam sorride e, afferrando il manubrio della carrozzina, mette in moto il suo carico. Ecco quello che Zazà racconta a Maurice nello Square du Vert-Galant, dove si ritrovano quando non vogliono parlare da Verdun o nella libreria che a Zazà non piace frequentare. Quel giorno hanno paura insieme e un po' di vergogna quando decidono insieme che Zazà non porterà più a spasso Lulu con Miriam. Laurent aveva proprio ragione, sono pericolosi. Ma Maurice non dice a Zazà che tutti quelli che vengono al terzo piano non sono meno pericolosi. Glielo tace perché non vuole che lei abbia anche più paura. Lei lo crede talmente al sicuro dietro il baluardo di tutti quei libri opportunisti e ancor più nel suo ruolo di giovane alla pari in seno a una famiglia opportunista come i libri che vende. Se sapesse. E se lui sapesse quello che aspetta lui, Maurice, fra poche settimane, una sera del marzo 1942, quando risale dalla libreria verso le 7 di sera. Nell'appartamento, la porta della stanza da pranzo è chiusa, come ogni volta che c'è una riunione. Prima di bussare, Maurice ascolta. Quella che parla è una voce sconosciuta, ma lui si sente come una pugnalata al cuore. La voce ha detto assolutamente come non ha più sentito dire da nessuno da 3 anni a questa parte. Bussa, dice sono io e entra. Lo sconosciuto che parla è seduto tra Villeneuve e uno dei redivivi. Uno dei 2 nuovi è di fronte al redivivo e volgendo le spalle alla porta con una giacca di cuoio marrone c'è Samy che si volta. Samy, che non fa cenno di conoscerlo. Samy, Hiri! Amici, avverte sobriamente il redivivo. Maurice saluta con la testa e va a sedersi accanto a Villeneuve. Continua, Hiri, dice il redivivo. Hiri parla, Maurice ascolta ma guarda Samy. Samy è dimagrito, gli occhi gli si sono fatti più grandi, assomiglia molto a Ginot. Non guarda che Hiri. Con degli errori di francese, Hiri dice le stesse cose che ha detto Samy la famosa domenica da Verdun, ma più brutalmente. Dice che è ebreo e straniero, che i suoi uomini sono ebrei e stranieri e che si sono raggruppati perché non li hanno voluti con i francesi quando hanno cominciato. E che hanno cominciato molto prima del 21 giugno 1941, non appena i crucchi hanno cominciato con gli ebrei. I nazisti, corregge amichevolmente il redivivo. Io dico come posso, fa Hiri. E Maurice cerca insistentemente lo sguardo di Samy. Lo fissa disperatamente, ma Samy guarda Hiri, il quale riprende a raccontare. I suoi uomini, dice i miei uomini, sono organizzati, sanno quello che devono fare e lo fanno perché non hanno niente da perdere. Tra di loro non si conoscono che a due, lui li conosce tutti e c'è qualcuno sopra di lui che l'ha mandato qui per il contatto. Lo sappiamo, dice il redivivo. Apparentemente il nuovo non lo sapeva, non dice niente, neanche Villeneuve. Ma è lui che sembra il più colpito dalla logica di Hiri, vecchie abitudini dei cosmopoliti, si dice Maurice. Comunque non ha quell'aria assente e cortese che inalbera il redivivo, né quella assente e totalmente indifferente che ostenta il nuovo. È molto rischioso, osserva il redivivo. Per chi? Per noi o per voi? Chiede allora Samy nel suo francese impeccabile, sempre senza guardare Maurice. Ma tu non sei straniero? Si stupisce il redivivo. Non lo ero, ma di recente mi sono naturalizzato straniero, risponde Samy che si alza vedendo Hiri già in piedi. Vieni, andiamocene, facciamo paura ai francesi, dice questo in Yiddish a Samy. Che cosa dice? Chiede il redivivo. Ho detto che ce ne andiamo, dice Hiri. Samy è già davanti alla porta. Hiri va per raggiungerlo, guarda i bei quadri, accarezza passando il mogano delle belle sedie inglesi, sorride vagamente. Noi? Ora? Discuteremo. E per ritrovarvi? Si informa il redivivo. Non è possibile trovarci, taglia corto Hiri. E escono. Sono pericolosi, mormora il nuovo, dopo che si è sentito sbattere la porta, soprattutto quello vecchio con quella faccia e quell'accento. Bisognerà vederli da qualche altra parte se si devono rivedere. Ha ragione, annuisce il redivivo, il quale non dà del tu al nuovo, che a sua volta non gli ha mai dato del tu. Villeneuve non dice niente. Guarda Maurice che lo guarda. Sembra che si ricordi di colpo che Gautier si chiama Gutmann. E Maurice sale in camera sua. La testa gli fa molto male. Piange e sta meglio. L'indomani va a Cochin. Non hanno più visto Samy da 2 mesi. Allora, la domenica, va in Rue de la Mar dalla nonna di Miriam, con Zazà. Il suo colpo ebreo, Maurice, lo fa solo dopo che Zazà ha fatto il suo. Zazà ha fatto il suo il 31 maggio verso le 9 del mattino, davanti al mucchio di sabbia delle Butte, quando Miriam le affida Lulu, più una bambina e 4 bambini tra i 5 e 6 anni che Zazà non conosce. Hanno tutti una cartella preparata dalle loro mamme che non sono presenti. Miriam porta un golf bordeaux su una gonna grigia, sul cuore si è cucita la stella nuova fiammante che le hanno consegnato il giorno prima. Dice che l'ha messa per non farsi notare in Rue de la Mar, ma che la scucirà appena avrà lasciato i bambini a Zazà. Bacia Zazà e se ne va rapidamente. Lulu non si è neanche accorta che sua madre non c'è più. Poiché il colpo è preparato alla perfezione, il giorno stesso Josette Clément, venuta apposta dall'Allier, porta via Zazà e i bambini con il treno di Moulin. A Moulin la zona libera comincia sull'altra riva dell'Allier. Laurent li accompagna alla Gare de Lyon e il camioncino del trovarobe del film aiuta Josette e Zazà a far salire i bambini, tutti contenti di andarsene in viaggio. Scende di nuovo sul marciapiede. Zazà compare dal finestrino abbassato, singhiozza. Il treno si mette in moto, il colpo è fatto. È un piccolo colpo, ma per Zazà è gigantesco. Laurent grida che verrà presto, lei lo guarda come si guarda qualcuno che non si vedrà più. Maurice fa il suo 1 settimana dopo, il suo, anch'esso preparato alla perfezione. È un colpo grosso. Ha individuato, provato, cronometrato, si è rifornito da Samy, ma agisce da solo. Ha scelto lui l'obiettivo, e non a caso. Per la bellezza del gesto, idealmente avrebbe voluto compierlo il 26 maggio, esattamente 16 anni dopo Schwarzbard. ma il 26 cade di lunedì, il giorno di chiusura del caffè. Sono le 22:50 del 7 giugno 1942, quando una bottiglia scagliata attraverso la finestra aperta esplode nella saletta interna del Dragon, dove sono seduti a tavola, come tutte le sere, i quattro ucraini della Gestapo dell'hotel Lutezia. Qualche secondo dopo, Maurice scende gli scalini del metrò Sèvres-Babylone. Dietro di lui dei bagliori illuminano l'incrocio dove è esploso in cascate cristalline il fracasso dei vetri rotti. A Châtelet c'è Miriam sul marciapiede, seduta sotto il manifesto di Leo Marianne. Si è tagliata i capelli e li ha decolorati, e dal suo golf bordeaux è scomparsa la stella. Si alza quando Maurice arriva alla sua altezza e lo supera, la segue a distanza, escono. Il grande orologio della Place du Châtelet segna le 23:15. La brasserie du théâtre abbassa la saracinesca, si chiudono i cancelli della stazione, Miriam cammina verso il Quai de Gesvres, Maurice si ferma contro un albero e vomita. È doloroso perché non ha niente nello stomaco, salvo il cachet che gli ha dato Samy, il cachet anti-FIFA che ha preso verso le 9. Miriam rallenta. Lui la raggiunge, resta a 5 metri dietro di lei. Lei ora cammina svelta, lui stenta a seguirla. C'è molta gente che va in giro prima del coprifuoco, ha paura di perderla. Attraversano un ponte, non sa quale, segue, ha freddo, eppure la notte è tiepida, lo sa, ma ha freddo. Si rimprovera di aver vomitato il resto del cachet. Miriam prende una stradina, poi un'altra e non c'è più nessuno in giro. Lei si ferma, spinge una porta che lascia aperta per lui, gli prende la mano nel buio, richiude la porta, accende una luce automatica giallastra. Sono le 23:35 quando Miriam lo lascia. Ha caricato e puntato alle 6 una sveglia jazz posata su uno sgabello. In una busta ha lasciato un biglietto Parigi-Moulin di seconda classe, partenza 8:05, una carta d'identità intestata a Jean Berthier, viaggiatore di commercio, nato il 13 dicembre 1921 ad Algeri, e del denaro raccolto presso i genitori dei bambini. Gli ha fatto l'inventario della borsa da scout che gli ha preparato e da dove ha tirato fuori un thermos di tè che gli ha raccomandato di lasciare lì come la sveglia. L'ha abbracciato rapidamente. L'indomani non avrà che da tirare la porta, ma prima delle 6:30. Ha detto che doveva tornare. Non ha detto dove. Maurice chiude lo spiraglio della cantina, trema di freddo, prende un sorso di tè che risputa immediatamente in un secchio di smalto azzurro nuovissimo che porta ancora l'etichetta del bazar dell'Hôtel de Ville. Si sdraia sul letto pieghevole e si avvolge in una coperta khaki con una striscia rossa. Spegne la candela e chiude gli occhi. I passi di una donna che porta suole di legno corrono davanti allo spiraglio. Risuonano per qualche attimo, poi c'è un rumore di portone che si chiude e nel silenzio che si è ristabilito i primi rintocchi di mezzanotte. Maurice riconosce la campana di Notre-Dame così vicina che ne è assordato. Devono averlo sentito poco fa fino a Rue de Seine, se non l'esplosione, quantomeno i pompieri e il pronto intervento al terzo piano sopra la libreria lo credono addormentato. Domattina Villeneuve salirà attraverso la botola. A meno che non sia già salito. Il biglietto, infilato tra la cornice scrostata e lo specchio, non dice granché, solo addio e grazie. In giro, nella camera, non c'è niente. Già dopo la visita di Samy, ha strappato tutte le foto su cui potevano riconoscerli Samy e lui, ma prima di distruggere quella del convento, ha accuratamente ritagliato le teste di Ginot e di Robert. Brillanti e lucide come lustrini, ora sono incollate dietro la piccola foto di Annie che ha infilato sotto la mica del suo portacarte. Con Sonia ed Elia sposi, Robert ai piedi del dottor Pierre e Valodia. Dei morti, un vagabondo e una straniera sono i soli indizi che avrà da offrire a Jean Berthier se mai riusciranno a beccarlo. Riaccende la candela. Esamina la sua nuova carta d'identità e la tessera non aria che non aveva visto nella busta quando Miriam gliel'ha data. Aveva ragione. Khiri, i suoi uomini, sanno quel che devono fare e lo fanno bene. I suoi uomini e le sue donne, fredde, calme, determinate, efficienti come Miriam, che fa paura con la sua aria di fare queste cose tutti i giorni. Anche la camera cantina fa paura con il suo finto ammasso di vecchiumi e di accessori nuovissimi, la sua semplice spranghetta di legno. Soffia di nuovo sulla candela. Si addormenta a metà verso le 4 del mattino. Alle 13:12, sotto un bel sole, scende dal treno a Moulins, nel momento in cui la polizia tedesca sale nei vagoni per controllare e lascia passare dei viaggiatori che continuano verso la zona libera e che ne hanno per un'ora di attesa bloccati negli scompartimenti. Tende il suo biglietto al controllore e la carta d'identità a un soldato tedesco che gli fa cenno che è inutile. Josette è lì, all'uscita dei viaggiatori. Porta una gonna rossa, una camicetta bianca, una borsa a tracolla, due biciclette sono appoggiate contro il muro della stazione. Josette abbraccia Maurice che è fresco e sbarbato. Si è sbarbato prima della partenza del treno, nella toilette verso le 7:30. È fresco perché ha dormito quasi sempre dopo aver scorso i giornali del mattino che gli hanno prestato i suoi compagni di viaggio. Non ha trovato che 10 righe nell'ultima pagina del Petit Parisien. Parlano di un'esplosione causata da una fuga di gas in un ristorante della riva sinistra. Oltre a grossi danni materiali, ci sarebbero state delle vittime di cui la polizia non avrebbe rivelato l'identità. Si sarebbe trattato di clienti abituali del locale, 3 in tutto. I viaggiatori dissero che quegli incidenti capitavano di continuo da quando c'erano delle interruzioni di gas. Figurarsi i cortocircuiti che ci sarebbero stati con le interruzioni di elettricità. Maurice non li sentiva più. Si era addormentato così pesantemente che il suo vicino lo dovette svegliare poco prima di arrivare alla stazione di Moulins. Se non ci fossi stato io, si sarebbe ritrovato con noi in zona libera, giovanotto, disse cortesemente, agganciandosi al risvolto della giacca una francisca d'argento, un distintivo che rappresenta un'ascia di guerra e costituisce l'emblema del regime di Vichy. Nella zona libera, Maurice ci si ritrova a 8 chilometri dalla stazione un'ora dopo. Sussurrando, Josette gli ha fatto valicare la frontiera che serpeggia invisibile nel cuore di una foresta di cui lei sembra conoscere tutti gli alberi. E i cespugli. Hanno lasciato le biciclette al limitare del bosco, in una capanna di cui Josette ha la chiave. A partire da lì si dirige sicura, come altri si orientano in una città, prende scorciatoie, evita i bivi, si addentra in sentieri che diventano sempre più bui e muscosi via via che scendono. Spesso passa davanti a lui e gli tende la mano, come fanno le guide in montagna. Sussurra. Parla sussurrando più di quanto non l'abbia mai sentita parlare normalmente in tutta la sua infanzia. Erano sempre Zaza o Robert a parlare. Lei sussurra per dirgli quello che dovrà fare quando sarà passato. Deve prendere la corriera all'uscita del bosco. Deve prendere il treno scendendo dalla corriera. Sussurra. Per sconsigliargli di andare a Neuilly-le-Real in quel momento. La milizia sorveglia la posta. Félix e Ginette. Sono invecchiati loro e sono tristi. Robert non ha più dato notizie a nessuno dall'estate del 39. Dopo un'orribile scena con il padre, si sono perdute le sue tracce. Maurice non parla della lettera ricevuta da Marsiglia. Sussurra che la cosa più difficile l'altro giorno è stato di impedire ai bambini di ridere troppo forte al momento del passaggio. Sussurra ancora più piano per chiedergli come va la sua testa ora. E si ferma per scoprire sotto i ricci la cicatrice di Maurice che sfiora con la punta delle dita. Lui ha chiuso gli occhi. Josette si rimette in cammino. Non saprà mai la voglia di lei, incredibilmente brutale, che l'ha colto per un attimo. Quasi con cattiveria, lascia che lo distanzi un po' per contemplare meglio la sua gonna di cotone rosso, così arricciata alla vita che le sue natiche le oscillano ad ogni passo. Si volta per aspettarlo. Sussurra che sono quasi arrivati. Lo guarda come si guarda un bambino stanco. Sussurra che anche Zazà era stanca dopo il viaggio, dice di sì e sorride. Non le dice che il giorno prima ha ucciso degli uomini. Hanno ancora da scendere per una ventina di metri sul muschio scivoloso prima di raggiungere il fondo del piccolo burrone dove la luce del sole non arriva più che a macchie informi, danzanti. Gli prende la mano. Costeggiano una vera e propria muraglia d'alberi nani, di radici, di liane, di felci, di rovi intricati. Lei conta 15 grandi passi, poi si ferma. È qui, mormora, e tira fuori dalla borsa un paio di guanti di cuoio nero che si infila. A piene mani scosta fasci di lunghi steli spinosi rispuntati da poco. Appare la breccia. Vai, vai e stai attento. Dall'altra parte forse ci sarà dell'acqua, gli dice. La bacia sulla guancia e passa strisciando sotto la volta di filo spinato che lei tiene sollevata con le braccia. Quando si rialza, dall'altra parte, ha appena il tempo di vederla rimettere i rami come prima. Gli fa un gesto con la mano prima di risistemare l'ultimo fascio dietro il quale scompare completamente. Non distingue neanche più il rosso della sua gonna quando la sente fischiare le 8 note della ballata di Lorelei Hardy, di cui in passato né lei né Zazà avrebbero osato servirsi. Le risponde fischiando, ma in un soffio. Aspetta un attimo, senza muoversi, poi si decide ad attraversare il letto di pietra su cui scorre un filo d'acqua. Ne beve una sorsata nel cavo della mano. L'acqua ha sapore di sangue. È bastata una spina di rovo. Arrotola il fazzoletto intorno alla mano sinistra e affronta la risalita dell'altro versante del burrone. Per la prima volta dal giorno prima ha fame, il che l'aiuta a camminare svelto. A Saint-Pourçain compra del pane con i veri tagliandi della sua falsa carta annonaria. Lo mangia aspettando la corriera. A Varennes-sur-Allier, prima di prendere il suo primo treno, compra una fascia velpeau. Nella corriera ha ben visto che il fazzoletto macchiato di sangue gli dava un'aria sospetta. A Lione, con la mano convenientemente fasciata, compra le ultime edizioni dei giornali, quelli della zona libera e quelli di Parigi. Li scorre, aspettando il suo secondo e ultimo treno. Nessuno parla di attentato né di esplosione e nell'ultima edizione del Petit Parisien non è neanche più menzionata la minima fuga di gas. A Grenoble prende per un pelo l'ultima corriera piena di gente che si conosce e risale insieme come è scesa insieme la mattina. Doveva essere giorno di mercato. Parlano degli acquisti che hanno fatto per la settimana, poi smettono di parlare. Il gassogeno fa troppo rumore appena affronta la montagna. A ogni fermata la corriera si vuota un po' di più e entra l'aria, sempre più fresca ogni volta che si aprono le portiere. Non sono più che 4 viaggiatori a scendere alla fine del viaggio, 2 donne, un uomo anziano e lui, e fa decisamente freddo sulla piazzetta dell'ultimo villaggio. Nella corriera, Maurice non ha riconosciuto nessuno e nessuno ha avuto l'aria di far caso a lui. Di gente che si arrampica per la montagna, se ne vede passare tutto l'anno, perché si noti bisogna che sia finita in un crepaccio. Allora diventa scomoda. Forse è la sola cosa che si dicono i paesani vedendo Maurice che si sistema lo zaino sulle spalle e infila i 2 pollici sotto le cinghie mentre inizia il primo degli 8 chilometri che gli restano da percorrere a piedi. È di nuovo solo per la prima volta dopo ore. Camminando, pensa che ieri a quest'ora si preparava a uccidere e insieme forse si accingeva a morire. Oggi i morti che probabilmente ha fatto sono morti anonimi e lui è un vivo sconosciuto. Non avrà la sua foto nel giornale come Samuel Schwarzbard e ai 4 piccoli pietrelora dell'Hotel Lutezia non toccherà un mausoleo al cimitero Montparnasse. Verranno a sostituirli altri che andranno a bere da qualche altra parte una volta finita la loro giornata. Lui ha quasi finito la sua. Respira avidamente l'aria fredda ma non ha freddo. Guarda intensamente la neve in alto e ancora più in alto il cielo così incredibilmente limpido che diventa blu, intenso. No, semmai pervinca. E il sole un po' rosso ma ancora così alto che non sarà ancora tramontato quando Maurice arriverà. E si chiede come ci dovrà pensare in futuro a quella giornata. Come all'indomani di un omicidio. Come un giorno di fuga. Come a un passaggio clandestino di frontiera? Probabilmente sarà tutto mescolato nella memoria in futuro, se gli sarà dato un futuro. Saranno tutte queste cose mescolate, ma con qualcosa in più, a cui non ha smesso di ripensare del tutto da quando è successo. Quella voglia brutale che ha avuto per un attimo di fare l'amore con Josette, di stenderla, di fare l'amore per terra o contro un albero e subito una ragazza che non si ama ma che è lì, una ragazza che non ama ma alla quale vuol bene, il che è peggio. Peggio. Riflettendoci bene non è sicuro. La piccola Josette, con il suo sussurrare nel sottobosco, la carezza fugace e la sottana scarlatta, gli ha reso, in piena innocenza, la speranza che gli avevano confiscato all'ospedale e alla quale si era rassegnato a poco a rinunciare. Ne aveva versate spesso di lacrime e di rabbia, solo la notte nel bel letto a battello di Rue de Seine, così miracolosamente troppo stretto per due in passato, così teneramente troppo stretto per lui e Annie, la giovane inglese che aveva tanto amato, quella là, e che sussurrava anche lei, che si addormentava sussurrando, si svegliava e scompariva la mattina sussurrando. Ne aveva pianto, e non solo per Annie. Anche per la campeggiatrice del bosco di Port-Louis, di cui non ricordava neanche più il viso e la voce, che pure aveva sussurrato anche lei sotto la tenda. Camminando, si dice che quella giornata, in seguito, sarebbe stata anche quella di una passeggiata nella foresta durante la quale avrebbe avuto la prima erezione dopo mesi. E per meglio violare il proprio pudore, la propria incorreggibile timidezza nell'usare le vere parole di cui tutti gli altri si servivano sempre, Samy come Robert e lui mai, se le dice ad alta voce. Tutti i verbi che conosce per dire quella cosa, se li dice, se li coniuga, se li ripete in cadenza, ne arrossisce da solo e cammina più veloce. Gli rimane da attraversare e da raggiungere la grossa abetaia. È lì che cominciano i 70 ettari del sindaco. Dall'altra parte, in basso, nel piccolo vallone, scorgerà le 20 case del villaggio, la segheria e un po' staccato solo con il suo pozzo quello che resta del convento dove Zazà non lo sta aspettando. Come non lo stanno aspettando quei piccoli estranei di cui ora si ripassa in testa i nomi? Miriam glieli ha ripetuti due volte ieri in cantina, consegnandogli la busta con il denaro. Oltre a Lulu c'è un Marcus, un Louis, un Fredo, un Adédé, un Dany. Trova che però ha buona memoria tenuto conto delle circostanze. Dall'altra parte del bosco non solo scorge il villaggio, ma c'è del fumo che esce dal camino del convento. 10 minuti dopo spinge la grande porta, grida «Sono io!» e entra. Sotto le volte i bambini sono a tavola, Zazà davanti alla cucina. Si volta e i bambini ridacchiano e si danno gomitate, vedendola precipitarsi tra le braccia di quello sconosciuto con la mano ferita. Il rovo non avrà lasciato che uno sfregio praticamente invisibile. Eppure, stanotte, facendo muovere lentamente la mano sinistra aperta sotto la luce della lampada, Maurice è riuscito ancora una volta a riconoscere il tracciato un po' incerto, un leggero brillio che differenzia quella linea dalle altre linee della mano. In quei momenti, come se la irrisoria ferita avesse voluto incidere una data diversamente e altrove che nella sua sola memoria, l'impercettibile solco assume le proporzioni di una vera e propria cicatrice. Ne ha ben altre adesso all'interno delle mani, ma quelle non hanno niente di segreto da dirgli. Sono i segni della sua imperizia nel maneggiare per le prime volte il martello, i chiodi, la sega e la zappa. Ora ci riesce con tutto il tempo che è passato. Sul tavolo, accanto alla borsa di Zazà, la bottiglia di Marcel è quasi vuota. Sorride vagamente alle proprie mani di lavoratore che non aprono più un libro da 22 mesi. Un'estate, un autunno, un inverno, una primavera, un'altra estate, un altro autunno, un altro inverno sono passati e i bambini che dormono lassù nel loro letto hanno mangiato tutti i giorni a sazietà. Si sono divertiti, bisticciati, riconciliati, hanno imparato a leggere e a scrivere, si sono rotolati nell'erba e nella neve. Hanno avuto caldo nella loro casa quando fuori faceva freddo. Col volgere delle stagioni sono cresciuti, come crescevano i bimbetti nei racconti di Charles Nodier, senza altri terrori notturni se non quelli che danno i latrati di un cane preso per un lupo o il soffio del vento sotto la porta confuso con i gemiti di un fantasma. 22 mesi di sopravvivenza rubati ai ladri di bambini che si preparavano a prenderli, rubati ai poliziotti, ai denunciatori, agli indifferenti, a tutti coloro che hanno preso, fatto prendere o lasciato prendere sorelle, fratelli, genitori, nonni, ai quali i bambini pensano forse di nascosto dal momento che li disegnano, ma ai quali non vogliono più scrivere dato che nessuno risponde mai. Neanche Valodia rispondeva. Anche lui aveva lasciato un indirizzo. Quello che ha lasciato Miriam è nascosto in fondo alla borsa di Zazà, proprio in fondo, ma il falso nome, il numero di una vera strada in un vero sobborgo di Parigi, quell'indirizzo scritto di suo pugno, è sordo, muto, inutile e scaduto come lo era quell'altro, scritto in cirillico e così accuratamente piegato nel portafoglio di Elia. Sepolto, l'indirizzo di Valodia con le spoglie di suo padre, Elia Gutman, nato a Gitomir, che riposa in pace al cimitero del Père Lachaise a Parigi, nel suo quartiere. Già che suo padre riposa in pace a fianco di sua madre e vicino ai suoi amici, Maurice ora ne è assolutamente sicuro. Tutti e quattro riposano in pace sotto pietre che portano i loro veri nomi, le loro date di nascita, quella della loro morte che è avvenuta giusto in tempo. Essa ha prolungato il loro sonno e ha dato loro il riposo che non avrebbero mai più conosciuto se fossero vissuti un po' più a lungo. Maurice si versa quello che resta dell'acqua vitae di Marcel in omaggio al destino che li ha fatti morire in tempo per essere dei morti pianti e onorati. Rivede il prefetto nella sua bella uniforme, il sottoministro in tight, e si dice che si sbagliavano prendendosela con un destino sventurato. È stato un felice destino a far morire dei vivi che si guardavano vivere prima che diventassero dei vivi che si ignorano come se fossero già dei morti. Beve al riposo e alla pace che hanno trovato, come glielo aveva promesso in latino il parroco di Châteauroux, ai tempi in cui la Francia prendeva il lutto per 19 dei suoi figli stritolati in un treno perché un bove, disperato all'idea di morire, era scappato da un vagone chiuso male. Ai tempi in cui i carri bestiame non servivano che a trasportare bestiame e gli autobus dei passeggeri che potevano, se volevano, scendere alla fermata successiva. Degli autobus, lui e Zazà lo sapevano già da un pezzo, da un vecchio telegramma dell'alverniata Felix che l'aveva consegnato a Josette, che l'aveva rispedito a Zazà. Lei l'ha conservato e nella sua borsa anche quello e dice: buoni vecchi amici della Mar, gravemente malati, stop, trasportati con urgenza con autobus stamani all'alba, stop, saluti Bubalù. Era datato luglio 1942. Dei carri bestiame l'ha saputo solo oggi. Non ha detto ancora niente a Zazà e tutto sommato non le dirà niente. Senza l'amico di Marcel, facchino alla stazione di Grenoble, neanche lui l'avrebbe mai saputo. Alla stazione di Grenoble. Tutti lo sanno. Succede in pieno giorno, su un binario morto dove aspettano i vagoni vuoti. Fanno entrare i camion dalla stazione merci. Quando i vagoni sono pieni, li chiudono col lucchetto. Aspettano che siano tutti chiusi prima di agganciarli a una locomotiva. Per la partenza non ci sono orari fissi. Per la destinazione non si sa, dipende da loro. Loro sono il capostazione tedesco e le SS. Per i camion c'è la milizia. Fanno su e giù dopo la raccolta. Non raccolgono solo gli ebrei, pare. Ora tutti sono talmente spaventati giù che mescolano tutto e tutti. Il casino, insomma. Era quel casino che aveva soprattutto l'aria di stupirlo, l'amico di Marcel, quando ha raccontato la storia prima di andarsene dal cantiere dove era salito a dare una mano. Anche il cantiere l'ha stupito. Non si aspettava di dover risalire così alto in montagna un giorno di ferie, né di trovare lassù quello che ha trovato. Ha contemplato la torre, la cui struttura ora raggiunge la vetta degli abeti circostanti. Ha scrollato il capo e ha chiesto a Marcel chi fosse quel deficiente che si faceva costruire un faro in piena montagna. Un astronomo di Lione, ha risposto Marcel. Il suo amico ha alzato le spalle, ha detto che era proprio il mondo alla rovescia e che quell'aggeggio era un vero Mirador de Mirliflor, sostantivo che risale al 700, qui usato come nome proprio, ma che significa vagheggino, bell'imbusto. Si è talmente fatto ridere da solo con la sua battuta che l'ha ripetuta 2 o 3 volte al ritmo del martello. E quello che doveva succedere è successo. Abbaglianti come il sole, sonori come colpi di cembalo, Mirador e Mirliflor hanno fatto il loro ingresso tra i bambini che fino a quel momento giocavano ai quattro cantoni nella betaia. Maurice si sforza invano di trasformare il Mirador in minareto, in torrione, in tourmalet, in piccionaia, in torre di Nesle e in torre Eiffel. È tutto inutile, è troppo tardi. Mirador l'abominevole e Mirliflor il mirifico hanno già spiegato il ventaglio dei loro mirabolanti tesori. Luccicano come un albero di Natale in fondo a una caverna di Ali Baba. Una volta Lura, la scorreggiatrice, innominabile sotto i suoi stracilerci, era spuntata di notte come un'ombra nell'infanzia di Maurice e di Zazà. Introvabili, inafferrabili e imbattibili, Mirador e Mirliflor sono coperti d'oro, di miracoli e di miraggi, di cera Miror, di Toreador col culo d'or, di Kanji Medor, di mirabelle dorate, di fiori dai mille, di Je t'aime et je t'adore. Le strofe della tiritera sono continuamente migliorate, ma il ritornello è immutabile, perché per la musica hanno trovato subito. È semplice e travolgente, facile da ricordare. Mirador nous voilà, Mirliflor te gaga. Il verso evoca un celebre inno cantato da tutti sotto il regime di Pétain, Maréchal nous voilà. L'hanno cantata per tutta la giornata e lungo tutto il sentiero mentre scendevano. Maurice si è dovuto arrabbiare perché tacessero prima dell'arrivo al villaggio. Hanno voluto sapere perché. Allora Maurice ha detto, per cominciare, che un Mirliflor non esisteva, che invece l'astronomo era un uomo molto gentile e che se si incontrava al villaggio non bisognava dargli un dispiacere, che gli piaceva molto la sua torre, che sarebbe stata bellissima una volta finita, che non era un Mirador, che non bisognava più dire quella parola, che era una parola bruttissima per una così bella torre in cima alla quale l'astronomo un giorno li avrebbe portati per fargli vedere da più vicino il cielo, la luna e le stelle, se facevano i bravi bambini. Hanno voluto sapere quando. Quando che cosa? Quando potranno salire per vedere il cielo, la luna e le stelle più in grande. Oh, quando la torre sarà finita e ci si potranno mettere sopra i grossi occhiali. Beh, i cannocchiali, le grosse lenti, insomma. E quando? Quando avremo il permesso. Perché non si ha il permesso ora? Perché non ce l'abbiamo e basta. Non abbiamo il permesso di guardare il cielo, la luna e le stelle in grande? No, non per il momento. Ora basta, Marcus. Hanno smesso di cantare. Alle proprie spalle, Maurice ha sentito le loro risa soffocate. Si è voltato appena in tempo per vedere Lulu che faceva ruotare l'indice della mano destra sotto il cappuccio della mantellina. Nevicava di nuovo e Maurice ha affrettato il passo. Attraversando il villaggio non hanno incontrato l'astronomo. A lui, a quel sempliciotto di città che si è comprato la cima di una montagna per vedere meglio il mondo alla rovescia, Maurice beve le ultime gocce che ancora restano in fondo alla ciotola. Resta ancora da compiere la cosa più dura se non vuole svegliare Zazà, ma sa come, ci è abituato, non far scricchiolare la poltrona alzandosi, lavare la ciotola, poi nascondere la bottiglia, spegnere la lampada e camminare nel buio fino alle scale dove non bisognerà cadere. Stasera c'è per di più la borsa di Zazà da rimettere a posto in fondo alla sala, sulla scrivania. Esita un attimo davanti alla lunghezza del tragitto, poi si decide, compie l'andata e il ritorno senza il minimo errore. Fiero di sé, prima di spegnere, lancia un'ultima occhiata alla porta di quercia, dietro alla quale non si è mosso niente. Né visto né preso. Ah, può risalire a letto.